alle 10 over. Rispondi Natalita, perché lo so che sia l'ascolto. No, ma non mi chiami mai. E niente, glielo so che sia l'ascolto. Puoi rispondere anche tu qualche volta. Io già non fischio, non mando beep. E li chiamo sempre. Ma io sono sempre impegnato, te lo so. Sempre alla porta. Esce. No, io invece non lavoro più, ma si faccio lavorare agli altri. Non sono a casa, solo rilassamento, ultimo rilassamento, mi è un po' la TV, adesso sono entrato qua, acceso, mi ho chiamato, capito mi hai, no, e allora, sono in pensione per stare sempre lavorando, cosa serve, nulla. Ma non ti sta nuovo. Sì, ma mi stava facendo diventare simile a una bestia, capito, dopo tanti anni. Come diceva qualcuno, senza fare nome, ma se l'ascolto si farà due risate, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, capito? Mi trasformavo proprio per il lavoro. Adesso c'ho un rilassamento, mi sto anche ricoglionendo, non so. E quello vuole niente da prima. No, mi sto ricoglionendo di più, a forza di non fare niente e di rilassarmi veramente, perché sono molto, molto tranquillo, veramente. Veramente, molto più tranquillo, meno nervoso, meno tutto. Quello l'ho acquistato. Il lavoro mi stava rendendo veramente la vita impossibile. Ecco perché ho cercato di fare tutto per andarmene. Tutto la vita è impossibile, perché è troppo stress, troppo, capito, non si poteva più. Vabbè, siccome c'è un problema, c'è un programma che senza ogni tanto di chiudersi, che se si chiude sono rovinato. L'ora di lavoro purtroppo, come dicevo, stare attento, dopo si vede. Rimango in ascolto, prima che si faccia tutto. Vai, fai, già fa, figurati, ce la so anch'io qua in ascolto, sono c'ho il computer acceso. Ok. Ma ce ne saranno, perché la radio che c'è tutti gli orologi non è ballata. 18:41 e vai ubriacone tragico. Visto che c'erano tutti che non ti rispondevano per farti il spesso. Ciao a tutti, scusate, io stavo mangiando e stavo ascoltando, dai, un attimino, un istante. 18:42 adesso, questo è un orologio di quelli che si collegano a Francoforte, l'orologio atomico, una cosa del genere, radio controllato praticamente. Ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Gianfranco. Ho notato, però io chiamo, ma Natalino risponde solo quando dici tu, Marco, cosa siete fidanzati? Era innamorato di me. No, ero coricato fino adesso, che ero crepato. E me ne sono alzato adesso, acceso adesso. Ecco perché ho detto che sta lui e gli ho detto che era ubriacone tragico. Ah, ok. Va bene, dai. Mangia pure Marco, allora, dai. Io già sono qua, quando volete. Sto mandando due messaggini, ma sono qua. Eia. Bene. Già mangiato uovo a piselli, uovo a piselli con una cipolle anche per condire, buono, abbastanza buono. Ma pensa che un istante fa sono entrato a ascoltare, poi ci ho passato qui, ho sentito te Gianfranco, dai. Poi Natalino è uscito a Pizzu, come si dice a Pizzu? Natalino, il filtro! Aiù, mangia! Ciao Gianfranco, che sennò questo non mi fa neanche salutare. Ciao Claudio. Sì, ciao a tutti, poi rimango un ascolto, sono stavo dicendo a Claudio, ma mi fate un programma, sono rovinato. Ciao! Oh, yeah. Io lo dico per spronarti così almeno lo ordini. Così posso attaccare lineare se necessita, se sento stazioni basse, sai. Ascolta, adesso mi stai rompendo le scatole, vieni domani e ti rubigli ed io non entro. Grazie, molto ci vuole. Tanto mi sto stancando. Ma poi non puoi entrare. E appunto, se non riesco a caricare quella cosa là, come faccio a ordinarlo? Te lo sto dicendo, io lo ordino, quando arrivi ti rubo il studio, non c'è problema. Te l'ho detto, lo facevamo assieme addirittura, che ordinevamo quell'antenino e quel coso. Il prossimo mese, il giorno 1, ritiro e facciamo tutto. Quando vado a ritirare quella cosa là, vado e la carico. Se no, senza carta, che cavolo faccio? In contrassegno. Ah, ma tu ritiri a fine mese, non all'inizio dell'altro, no? Ah, il primo. Ritiro io. A fine mese. Il primo. Come mamma. Ritiri il primo, no? Credevo fine mese inteso il 27, credevo roba del genere. Invece no, no, non c'entra, dai. Bene, al 23 sento varie persone oggi, diciamo un po' grandi di età, dai, soliti. Si è aggiunto coso anche California. Santiago Sì arrivi in occhi. Come Claudio? Poco arriva. Santiago Sì arriva, 6-7, non di più. Oh, perché l'ho visto sia attaccato sia liscio, non so, sia potenza bassa che alta. Alta arriva 9, ma non di più, non di più. Deve avere qualche mini antenna. Mini antenna, poi c'è Luca lì. Tra PMR e lui 23 l'hanno adottato Luca del Monte. Ed è troncata l'antenna a California, non ne ha. C'ha un antennino a bravo. Sa come sta uscendo. Un di boccia. Vabbè, fatti giù. Ok. Noi qua siamo, ti ho detto Marco, tu sempre devi, a me non me la fatti nulla di chi c'è e chi non c'è, mi detto, già ascolto, io già lo so chi c'è e chi non c'è, sempre dobbiamo sempre parlare degli altri, mamma mia, il fastidio che mi dai. Ma io lo sto raccontando a Natalino chi c'è, mica a te, tu hai detto che eri impegnato, no, cosa stai facendo? Scrivendo, non ho capito, messaggiando. Ah, vedi la lecce, ti ho detto sono qua, stavo mandando due messaggini. Cosa gli ho fatto di male? E a me non me li mandi due messaggini col cuoricino. Già ne vuoi sapere poco di cosa? Se quello c'ha l'avanti tu lo fai scoprire. A te ti mangio un messaggino con sotto tutte le pistole, così ne scegli una e ti spari. No, io voglio la Glock di Natalino. Pronta! Perché per spararsi viene meglio che al grilletto più sensibile. Vabbè, state con un colpo di bico a capo, è vero che ti ammazzo subito. Ieri ero uscito, vabbè, sono fatto il giro a Platamona, c'era la mia ragazza lì. Mamma mia, come fai a vivere? Vabbè, era tutto coperto, no? Tutto blindato da teloni. Ma non si può vivere così, l'ho vista anche, ho detto, guarda qua lei. Ho detto, non può vivere così, no? In inverno. Eccetera, eccetera. Poi stava cominciando a avanzare. Cioè, la prossima volta che viene me lo porta un telone 4x5 metri, quelli con gli anelli, siccome non costano niente, mi. Poi stavo dicendo, belle le sue scarpe, io ho 41 o 40, mi piacerebbero le scarpe come le sue. Stavo per dire, sì, aspetta che faccio la spesa, poi volevo un panino, io ero senza soldi, almeno senza monete, i soldi ce li avevo, ma capito, c'ha la faccia di culo di pretendere roba, e il telone, le scarpe, e il panino mordito, voleva le sigarette, però dice che i soldi me li dava per le sigarette. Perché no, stavo per dire, perché non pensa a mangiarseli quei soldi invece di fumarseli? Per carità, ancora lì, no, sono un bel po' che non ci scende a Platone. Forse se fa buona giornata, se no farmi un giro domenica è morto. E noi questa volta messo a posto, dai, soldi te li stai mangiando o te li stai mettendo da parte per aggiustare la moto? Non ho venduto niente ancora, Claudio. C'è gente che vuole il dual fund, però è di fuori, devo spedire, vabbè, una rottura di palle, però un pacco lo so preparare, non è che bastava l'indirizzo, mi paga prima tramite Postpay e lui dice, può dire non mi fido, nemmeno io mi fido. C'è una seccatura, avrei preferito vendere in loco, venderlo qua, lo Yaesu. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Non si vende nulla, anche il baracchino, Graziano aveva accennato, ma poi tutto fuoco di paglia era. Ho capito, ho capito. Va bene, no, stavo mandando messaggi perché col telefono non ricevo, perciò c'è il sottoparlante bruciato e poi non mi dai i numeri tutti anonimo, capito? E quindi stavo cambiando il telefono che c'è un nuovo discorso, stavo mettendo l'altra scheda. Adesso domani mattina lo porto al centro assistenza. Lo faccio controllare. Va bene, riprendi Nathalie. Ehi, sento un fischio sento sotto la modulazione quando parlate. Ma tutte e due, sia io che Marco, e non lo so, allora sarà un problema tuo, io qua no. Non c'ho niente di fischi, tutto regolare. No, a Marco, che altro? O c'è qualcuno che mette la portante sotto? Non sarà questo, ma aspetta, te lo faccio sentire, mi. No, poi adesso non c'era. Lo fa proprio quando uno schiaccia la porta e esce un tiro là. Starà facendo il baracchino, ma speriamo di no. Si è partito questo anche non mangiare. No, qua io non sento niente, Marco è pulitissimo. Vabbè, c'è qualcuno che parla sotto, lo senti, ma qua c'è il segnale talmente forte che non sento niente. Vediamo un po', chi è che vuole entrare? Prego. Lì, non ne ho più rum avanti. Buonasera a tutti, io ho fatto break poco 5 secondi fa, ma non so se sia io che ero sotto, che ero sopra. E ho fatto un break nello spazio, ho pensato che non stesse parlando nessuno e ho fatto un break. Io già, quindi mi sarò svelato, ciao Gianni, ben entrato. Vai Natalino. Ciao Natalino. Bisogna che ti presto il mio di apparecchio a vedere se esce lì. Non è il fatto di uscire, riceve male pure, è un casotto, guarda. Meglio la morte. Il mio se c'è l'MP più 5 esce una bomba, quello mio, quello omologato. Anche la 48 c'ho io con MB più 5, c'è quanto è questo, però è inutile mettere MB più 5, se poi disturba devo usare il microfono normale, capito? Ma il mio con microfono normale già l'hai sentito ieri, esce un po' fuffa da radio, almeno che con la sua voce diversa, non lo so. Prestagli il Cobra. No, il Cobra qua è una stazione, non si tocca. Lo posso prestare, tanto ce l'ho fermo, io l'ho attaccato, la sta lì e non funzionavano dalla MFM e tutti quei tasti, ne ho passato tutto lo spray per contatti, adesso non va tanto bene. Non lo sento io, di radio. Dove non ha se moduli da nota non si ricomprende nulla. Niente, ma passa la radio. Sì, perché c'è una capsula del cavolo. No, vedi, adesso quando hai detto cavolo si è uscito bene. Sì, perché ce l'ho vicino adesso, se io lo uso attaccato alla bocca e c'è bene. Anche io uso il microfono attaccato alla bocca, cioè non sto mai a questa distanza, lo tengo vicino alla bocca, mi piace avere cose vicino alla bocca a me. Marco addirittura se lo mettete sulla bocca. Perché Marco è un golosone. Mi piacciono i microfoni. Quelli allungati. Con quella bella capocchia di spugna. Fatevi immagini quanto è vizioso questo. Ma tu hai sentito la revigia il DAC con Tane più 3? Sì, mi sa di sì, mi sa una volta. Se me l'avevi fatto sentire tempo fa, ma se... Ma se non ne avevo Tane più 3, lavorato a Gavino. L'ho ordinato di nuovo, ho messo quando è arrivato la settimana scorsa. 80 euro me l'avevo fatto pagare. Quello grigio è però Tane più 3, non B, non nero. Grigio, Made in USA, bellissimo, nuovo nuovo. No, allora no, vabbè, ce l'avevo prima, però non lo stavo usando il DAC perché non c'era la potenza. Adesso già è a posto. Adesso sto usando l'MB più 5 col DAC, però c'ho anche il Tanner, ma col Tanner è un bel forte la modulazione. Troppo tonalità alta c'è. Invece con l'MB più 5 regolo leggermente il tono, è più bella. Ho visto un mitico CD dopo pranzo, era con un altro a piedi qui in Corso Trinità, ma mitico però. Ma... abbiamo parlato in due, padre Francesco? No, ho visto a quel diabolico di Walter. E chi era? Un Piaggiaco? No, un altro era. A piedi in Corso Trinità anch'io, stavo andando a prendere la macchina per andare da Massimiliano e ho visto a Walter. E mi ha riconosciuto, nonostante avessi i capelli rappati. Beh, che tu sei mitico. Spero che ci stava nel marciapiede, sì. Già ci stava. E un altro. Cioè, mi è sembrato di conoscerlo, ma non l'ho riconosciuto. È strano che lui cammina a piedi. Non si muove un passo a piedi. Vabbè, evidentemente aveva commissioni da fare lì. Adesso non può che non lo vedo io. Sentiamo ogni tanto su WhatsApp, era molto che non lo vedo. Vai Marco. Marco si è commosso. Si è commosso, era andato a fare il pranzo. Qua mangia cioccolato, il mangiatore di cioccolato. E infatti aveva bene i denti, sempre mangiando i caramelli addossi. No, sono ancora al salato. Al salato è ancora. Dopo ti diamo il dolce, con la cremina. C'è la panna, a voi? No, a lui le piace il miele, capito? Il miele sopra il cornicione le piace. Dipende dal cornicione. Prima ho sentito Luca del Monte sul 23, no? Caso strano aveva il segnale di, com'era, radio Maremmano, com'era quello di ieri? Terranova. Tu ieri, allora, mamma e futti, ma dopo 40 anni radio di Raira, al vostro bottini. Tu ieri. Io già l'ho lasciato andare. Chiama, come fa lui, no? Ehi, ha detto, sì, chiama. Cazzo. Luca c'è il 23, c'ha il baracchino a casa della ragazza lì a Latte Dolce e sta anche sul 23, sta molto più in più e mezzo, ma sta anche sul 23, qua arriva Santiago Nova. Ah, quindi era a casa della ragazza quando te la fa sul 23? Allora, casa della ragazza c'ha un antennino per chiacchierare con loro che sono vicini, qua arriva 8, 9, dipende, capito? Giorno lui è entrato qua sul 10, però era a casa sua. Io glielo volevo dare a Marco, col mio amico, e dai, se ti fa piacere, così la famiglia aumenta, non è un problema. Io col comportamento lo faccio fuggire, concio rubi, crosti. Così hai detto già che Marco, masticando, ti ha sovramodulato, così hai detto? Ho detto che lui ha detto che non sa come si usa, nel salve te lo faccio vedere come si usa, non è che sia un problema, no? Basta che tu guardi e te lo faccio vedere come si fa. Gianni? Sì? Abbiamo ripreso insieme prima, ho detto che lo faccio fuggire, comportandomi male, comincio a rutti, a trotti. Non lo vuoi fuggire così a Marco? Vero, Natale? Raga, Marco Tutù? Sì. E per salutare ci sono già pure iscritto, mi Marco, attenzione. No, ma a parte quello, aspetta un po' muscoli, te lo sto dicendo. Basta dire che prendere una palla da 3 tacchi di luna, da industriale, e alla catena di montaggio, ti dico altro. Prendere una palla di gomma, 3 tacchi. Se solo ti stringe la mano ti fa dire mamma perdono. È bravo, ma non riuscite a riempire. Che c'ha le braccia che sembrano d'acciaio, Natali, ancora c'ha questa muscolatura nelle braccia che tu è torso di lavata. Sì, chiaro, ma te lo ricordi quando ti stringeva la mano, cazzo, ti va dire mamma perdono. C'era una stretta gata d'acciaio. Che tacchini la misurite la basso. E se no non corria, Natali, quando correva a giocare a pallone. Ehi, che credo. Poverino, non è soltanto anche una squadra di calcio fuori. Ma già le sue io. E capo solo la stessa. Sì, dei canariati già per la stazionaria, ma non mi ha fatto una cosa sto sentirci sempre. E infatti la Natale che io l'ho accorciato appena, perché ieri mi segnava l'Afi, l'ho appena accorciata. Invece sai cos'era? Si era svittato dietro completamente il piede in terra, c'era svittato dal braccio. E che ci stava a pensare questa cosa qua che si svittava così, boh. E poi alla fine ha smontato tutto e cioè deve uscire fuori quello che o è l'attacco dell'antenna, ha provato lo stilo della Tuvo 2001 e faceva la stessa cosa, e tengo venti mani. Allora non è lo stilo. Allora ne ha smontato tutto e c'era piede staccata. Adesso l'ho regolata diciamo come stazionale, mi dà 1-1 nei canali sino al 20, al 22 là. E poi mi dà 1-3 negli altri. Sì, ma non c'è una libera mobile? Non c'è pericolo. Adesso non mi ricordo se l'ho messa nei canali di sopra oppure nei canali normali, perché stavo provando sopra, capito, stavo controllando il stazionario. Adesso non mi ricordo se è sopra sul testo, quando lui si frequenta qualche giorno devo scendere giù e controllare. Andà bene Mela. Cavagana. Flavio riprendi. Noi ci si importaci. Già sto col telefono. Riceve, capito? Mi dà tutti i numeri anonimo e poi la colonnina, la tua parlante no, non riceve, però ho messo l'altro di scorta, cerco l'altro. E domani mattina l'ho posto alla centro assistenza. Ma ragazzi, non va più qua. Non vedo che conviene, guarda, comprarlo nuovo piuttosto che portarlo lì, magari te l'aggiustano male. Se non è che c'è qualche cazzata, però. Ma c'è una città che ha anche il traccio, ti fai una macchina. Non lo so, avanti ieri mi è caduto in terra e non ha funzionato più. Capito? Un buccio l'altro uguale, sempre Samsung. Adesso uso questo, quello che avevo messo la scheda lì, ma poco fa stavo usando quello di mia moglie con la scheda mia, ma insomma so quello, adesso va bene, lo porto, vediamo se può riparare, se no il biglietto l'ho appena mandato, già ce l'ho, se no vale me ne prendo altro. Io non ho per vedere a Luca, magari un filo stacca che una carta se loro ti prendono un sacco di soldi. Cioè, se c'è qualche filo staccato. No, il filo staccato non c'è, questione di memoria. Questione di memoria, qualcosa di grave è successo. Capito? Non mi va più solo su WhatsApp, posso usare le il resto non mi dà più niente. Vabbè. Infatti mi hanno chiamato, infatti ieri a mattina, se mi ricordo. Mi ha avvisato Massimiliano, mi stavano cercando, che non mi va tutti anonimi, capito, se non mi esce il numero, se non c'è la rubrica non rispondo a numeri, a mappe non li conosca, numeri fissi, ma numeri anonimi no, non rispondo mai a nessuno io, perché sono una rottura di balle, bene, ho il telefono, ti vado in corso, ma magari sono anche infettati. Tu fai una cosa, glielo porti a 170 dici prima di farlo mi fa fare la spesa e guarda se ti conviene, se non ti conviene non glielo fai qua. Sì, lo porto alla centro assistenza a Sancio. C'è un amico di mia figlia, vediamo cosa mi dice. E sono provetto, lo prendo, se lo fanno a destra uso l'altro e poi vado, lo prendo uno. Va bene, cosa stavi dicendo Marco? Cosa stavi dicendo? Parli sempre sopra Gianni, boh. No, è che riprendiamo insieme, anche lui ha detto veloce, non me lo ricordo. Di cellulari, no, dell'antenna, se stava parlando dell'antenna veicolare oppure un'altra antenna. Veicolare Marco, veicolare. L'altro giorno stavo accendendo l'api dell'apparecchio, ho detto che è strano. Quello lucido, non c'era nulla ossidato, niente, la base non era, ho cambiato lo stile, ne ho messo quello della 2001, lo faceva lo stesso, alla fine ne ho smontato il baracchino, tutto quanto, e sai cos'era? Il capo, il PL staccato dal baracchino completamente. Può capitare, per esempio a me si muoveva la ghiera, no? Quella che fissa la femmina PL, no? E lì a fuori di avvitare, svitare, sicuramente poteva rischiare di rompersi la saldatura tra scheda e PL esterno, capito? E il PL che poi va all'esterno. Gli ho dato una stretta, non eccessiva, certo, non serve eccessiva. E può capitare, anche a me è capitato. Poi per il resto cosa stavo dicendo? Gianni, tu sai dove è il centro assistenza Huawei? Huawei? Per curiosità, così tanto per sapere. No, non lo so, sinceramente. Io c'ho Huawei, però l'abbiamo preso da poco. Io, Liliana e Marco, mio figlio. L'abbiamo preso tutti e tre uguali. Loro due se l'hanno preso da internet e l'hanno pagato 100 euro in meno. Da cosa? Come si chiama? Amato. L'hanno preso lì. E invece io l'ho preso a Sassari perché ho detto io lo voglio vedere il telefono, magari viaggiato su Rovina, questo con l'altro, e l'ho pagato 100 euro in circa. A Città Mercato e al Media World, come si chiama? Media World, ma quello è un rivenditore, no, non è un centro assistenza. No, per curiosità, mi è successo solo, la batteria so già che la vendono su eBay, è successo che mi si è scaricato a zero proprio. radio si è spento, andando a ricaricare la batteria e l'onfia, non dura più quanto dovrebbe, a parte che stava invecchiando la batteria, no? Quindi costa, mi pare, dagli 8 agli 10 euro su eBay, l'ho già vista, nuovo originale. Ma la batteria che non si può, devi portare al treno. Marco, mia figlia lì si è rotto il vetro, è andata dove l'ha comprato, a media volta, hanno fatto un foglio, una cosa, parlata a loro, dopo tre giorni mi pare, l'hanno chiamata di andare a ritirarsi il telefono, quindi penso che ce l'abbiano, che ce l'abbiano loro, uno del centro assistenza. No, no, vanno al centro assistenza, magari qui te lo fanno bene. No, io il problema non ce l'ho fatto, ho messo il vetro con l'uffitto sopra. A me mi è caduto, mi si è rotto il vetro uffitto, ma con l'uffitto non si è rotto. Io lo so, ma lui al lavoro là, si è appoggiato sul tavolino, si è distratto, è caduto di punta e si è filato il vetro. Quindi era lì, capito? Era lì a Città Mercato, è andata e gli hanno fatto direttamente loro, poi non solo ve lo mandi, quello che hanno fatto loro. Non ho pagato neanche molto, 20 euro. È abbastanza. Se si spetta così si può anche fare. A me mi è capitato un paio di volte che mi è caduto perché io mi sdraio dal divano, mi guardo il televisore e mi metto il telefono vicino agli occhiali, di modo che quando suona io prendo e rispondo. Beh, una volta mi è caduto dal divano, meno male che sotto c'è il tappeto persiano, quindi non è che mi faccia più tanto, però attisce il corpo, dai. Però poi mi è andato a pensare e va a fino, ma detto, perché papà non ti metti quel vetrino dei cinesi? Costa 4 euro, ti salvaguarda il telefono, non te lo rompe il vetro bello. E così ho fatto. Mi si è rotto quello lì, mi è caduto in terra dall'alto, mi si è spaccato quel vetrino che si mette sopra e l'altro rimasto in terra. Sì, sì, un proteggio rosso. Guarda, io ho questo mio adesso di lavoro, ce l'avevo un bel po' di anni, sempre a lavoro, mai graffiato, mai proprio usato perfettamente, mai. C'avevo il cane, portando il cane, lo stavo mettendo nel taschino, a Rugio invece c'entrava il taschino, oggi c'entrava a Biodo, capito, da giubbotto, mi è caduto in terra. Anche a me l'ha fatto. Io invece stavo appena nel giubbotto nell'armadio. Mi ha squillato il telefono, sono andato a rispondere, cade tra il giubbotto che avevo in mano, il telefono è tutto grande, me l'hai parato in terra e si è fasciato il vetro. A me non si è fasciato niente. Nulla, si è spento. Si è spento. L'ho riacceso. Sembrava tutto a posto. Invece no. Non si sente la suoneria, i numeri non appaiono, capito? Un casino, vabbè, stavo le luci. Mi stavi dicendo già che bisogna aprire il telefono? Ma non è così, Marco. Allora, nel modello che sto usando, in quello che sto usando attualmente, basta aprire il coperchio, sfili la batteria come un normale cellulare e la cambi, mentre in quello che non sto usando la batteria credo è saldata, non la sfili così, ci vuole il centro assistenza, perché sai, un giorno prima o poi la dovrò cambiare anche quella, non è per adesso, però prima o poi andrà cambiata. Però che scemi, in un modello la fanno estraibile, no? Come normale cellulare, nell'altra gliela saltano, gliela mettono fissa, in teoria, quasi fissa, boh, che senso ha? Ah, la marca è la stessa, eh? No, il mio è P10, capito? Il mio è P10 ed è praticamente chiuso il telefono, non si può aprire. Non so come faccia la sua assistenza, se c'era qualche metodo strano, però per cambiare la batteria lo devi portare per forza c'è l'assistenza, a meno che ti intendi i telefoni e ti arracci. Leia. Vabbè. Sì, l'altro apri tutto il coperchio, no? Come se lo volessi smontare. Sfili la batteria e la cambi. la sigla adesso non me la ricordo, però c'è su eBay, c'è sia originale che non originale, però preferirei originale, di solito durano sempre di più. Una cazzata, dice. Io l'avevo comprata per l'S3, la batteria originale, e mi è durata un certo tempo, la parte che dall'inizio non era più, non era efficace come l'altra, come proprio quella che c'è un po' al telefono, ed era l'originale, sto dicendo, l'ho preso l'originale, l'ho pagata di più, magari mi avrebbe durato più l'altra che quella lì. Adesso mi sa che lo carico con le S3, perché non volevo farla partire la batteria. Io poi ho avuto questo scrivito con Liliana e con Marco, siamo come Pietro e Telefono uguale. Eia. Va bene, dai. E quando sarà quell'altro lo porto al centro assistenza e se la vedono loro. Sai perché già le batterie originali sono nere, con le scritte rosse, eccetera, e col marchetto Away, potrebbe anche non avere le marche, però quelle della concorrenza sono bianche, boh, proprio diverse, non mi ispirano assai, non mi ispirano. Io finché potrò le metto originali, poi che duri poco è un problema diverso, vuol dire che è rovinata la batteria. Adesso io ti parlo di batteria di macchina. Allora io la batteria della macchina mia, la mia prima batteria è durata 7 anni. La seconda batteria che ho comprato, praticamente ho comprato quella della Fiat, l'ho pagato un sacco di dinari e mi ha durato da Natale a Santo Stefano, ti dico pochissimo. Adesso sono andato ultimamente e l'ho comprata da Capilli, quelle batterie che non c'hanno né marca né nulla, sono di marche strane, là. Però ti dà la garanzia di 2 anni, lo sai che la batteria più di 2 anni è anche quella diciamo di marca, più di 2 anni non ti dura adesso, dopo quella che c'hai dalla casa. Beh, ma cosa che ho, questa qui ce l'ho oltre 3 anni, quella di Campini, e non mi si è mai guastata di tocco, però è sempre andata bene. E l'ho pagata a 80 euro da 100 watt, immaginati, 100 ampere. Caspita, tu monti 100 ampere. Eh sì, perché tra amplificatore dello stereo, amplificatore maracchino, questo e quell'altro, c'è un bel assorbimento. Caspita, una batteria a camion, sì, certe volte la batteria della casa non si spiega, dura un'eternità, sembra fatta apposta per... non lo so, le fanno meglio, perché sicuramente quei farabutti sanno come farle bene le batterie, però poi quelle di ricambio durano poco. Quella magnetta Marelli che mi ha dato il meccanico fa 3 anni a febbraio. 3 anni, ma per quello che l'ho pagata, caspita, dovrebbe fare di più, molto di più. Già stavo scaricando per il freddo, l'ho caricata e è andata bene. E vabbè. Pazienza, se no io compravo quelle di Auchan, le Ursus, durata media 3 anni, e alla fine siamo lì, le paghi 45 euro, 50, dipende dalle ampere. Allora la mia, quella che mi ha messo, diciamo che ha fatto un po' di forza per farla entrare, perché non era come grandezza, era appena più grande, un pochino più grande, ma ha fatto... di cosa c'è stata lo stesso, ha fatto le modifiche, c'è stata, però perché non c'aveva quella da 80, e la macchina mia monta quella da 80, l'ho messa da 100 perché così almeno come spinta dice che ne ha di più, e in più resiste meglio se c'è amplificatori, tutte queste cose qua. Beh, quello sì, o quando si usa un linearetti per esempio. No, quella mia è solo da 55 o 60 ampere, tanto lo stereo è andato, baracchino ne metto una volta ogni 1000 anni, tanto non... Ti ricordi quando si entrava nel pomeriggio a modulare? Uscivo, andavo al mare, il pomeriggio trovavo, ormai non è più così, non è più così. A quando uscire al mare sei già tornato e ancora, qua si entra dalle 6 in poi, vedo, dalle 6 un quarto in poi. Ma perché non ci giro? Perché se no magari la gente ci... Se non entra nessuno, è normale che non si fa questi giri. Prima entra un panisce, dopo un pranzo, entra a pulire, entra a tutto. Adesso questo qui non è, non è sia alle 8, cui ciao! Lo so, forse la gente non se ce la fa più a entrare il pomeriggio, magari fanno la penichella anche sull'altro canale, può darsi facciamo la penichella. Io ogni tanto la faccio, Natalino la fa, Claudio non lo so, ma presumo di sì. È oro. Io lo stesso la faccio, ma se so che c'è gente accendo, capito? Mi fa che ti accende. Poi magari da dove sto parlando, però... Per me è oro, senza quella non resisto. Poi ci metto quel canto all'una e mezza, mi manco. Quanto mi sono quel canto all'una e 10 con la televisione. Quando lavoravo alle 11 ero già in Cattavecci. Ehi, ma io mi ricordo anche Ivan, che è più giovane di me, anche quando era un po' più giovane, lui aveva proprio bisogno della penichella, proprio dormiva, fisiologicamente ne aveva necessità, sennò poi era tutto scombussolato poi la sera. E lui la mattina non è che si alza presto, io mi alzavo la mattina alle 5, quindi era un casino, dovevo per forza riposarmi, e poi lo faccio ancora oggi, capito? Molto bene, alla grande, se così, un'oretta, un paio d'ore, così, capito? Va bene. Natali, riprendi. Eia. Ah, stamattina sono andato da Gigi a tagliarmi i capelli. Già questo barbone bianco, ragazzo, non ce la piccerette. Mi ha detto che ce la faceva. Che ce la faceva di nuovo Celeste, capito? Perché c'ha ricchiette, c'ha. Ne darebbe. Fate priore Barighe. Ma cazzo mi verrebbe da ronga va. Bella lunga, curata, bella sì. No, non me è sempre, va, se vai e taglia, cosa, non so, un po' 2 settimane fa, neanche. Adesso, 3 settimane ci vado di nuovo a farmi fare i capelli. Ehi, Gigi, già lavora. Vai, Marco. Eia, e dov'è questo Gigi? Il cuore vicino a dove stava Gianni prima, caldo. Ah no, allora non ho mai conosciuto. Ma si fa la barba celeste, così è. E una volta sono andato a farmi di bene, va via la barba celeste, cazzo. Sei andato anche Claudio, mi dicela. Sì, una barba colorata celeste. Adesso ce l'ha bianca ce l'ha. Io un frate di cappuccini di si anziano, qui senza capelli, con la barba bianca, capito? Però il barbiere se la cura, sa dove mette le mani, eccetera, io non riuscirei a tenerla così, capito? E io. Dov'è? Sotto i pottici? E io, sotto i pottici, sì. Ah, dove abitava il girone lungo, segreto? Sì, dove c'è il circolo di Toppo, sono attaccati. Ci sono certe persone che hanno la cultura della barba, se la tengono bene, se la lavano, se la curano, capito? A certi piace la barba proprio, io non la sopporterei, già quando ho 2 mm di barba la devo fare, mamma mia, non mi piace proprio, devo avere il mento bello liscio. A me la barba dà il senso di sporco. A me non mi sta bene, no, ma deve stare bene al viso, ci sono persone che con la barbetta curata stanno bene, tipo anche un calà che si fa con la barbetta stretta e così, se è curata sta bene. E se no quello che c'è un bar lì in Viale Portotove, prima del rifornitore, guarda a vedere quel ragazzo, va chi ci va, ma a me da basta vero, come quella di Gigi Ecla, però chi ci vedrà sta niente, no? È giovane, non è come De Gigi. Lì al bar Diamante. Sì, sì, rosso. No, ma non è come con le Gigi, mi piace più con le Gigi. La Gigi è una 20 centimetri mio. Guarda lì, hai trovato in lunga. È questo lo stesso che è motociclista, che ha fatto, è prima del bar Diamante, è vicino al prima del ricognitore. Praticamente prima di entrare dove c'era l'officina, quel città ti conosco, quel bar lì che c'ha le porte scorribili, chi su si vede in mezzo una pilonga di Gigi, è bella vasta lì, bella curata. Dove c'è il negozio della mortadella? E dopo il negozio della mortadella profumata, anche il cane è fuggito. E poi questo era un profumato accuraendo, era un quattro vita a piotto. Naturalmente io come barba non dicevo la barba di Luca, ma proprio quelle barbe folte, lunghe, tipo 10-15 centimetri. Certi ragazzi italiani c'erano degli arabi, anche con quelle barbere, sì, barbere, sì. Il mulla, no, non mi metto un mezzo di giama. E io non ci ho mai fatto la giama, perché ma non mi piacciono. Sembra proprio come dice Gianni, capito? Sa di sforzo, nonostante fosse tracciata, bene, pulita, ordinata, non mi piace, era già quasi tutta bianca, c'era solo sotto i baffi un pochino neri, ma adesso era già tutta bianca, ma non mi piace. Vabbè raga, sono le 7:30, dai, anzi quasi meno 25. Io vi saluto, se ci siete a dopo, altrimenti pazienza. Vado a portare il cane, ok? Vai già. Buona passeggiata, beh. Ma Marco chi? A Marco me o Marco l'altro? No, Marco l'amico mio. Eia, ok. Bene, bene. Sì, anche, guarda, certe pubblicità a Natalino facevano vedere ragazzi in barba. Ragazzi giovani, mi 25 anni, queste barbe scure, belle folte, lucide, ben curate, perché certo se vedi la barba del barbone che ci vomita addosso, allora sì che fa schifo. Ma se una barba è lucida, ben curata, ben lavata, gli metti lo shampoo, te la fa bella, lucida, lucida, morbida. Ma non c'è altra cosa che la faccia quello di bambino, guarda, quando inizia così la facciamo la gente brutta. Io adesso ce l'ho lunga perché stiamo a tagliarla. Sono andato con la barba lunga da lì. Barbun! Vabbè, per causa di forza maggiore. E anch'io ce l'ho, questa è barba di 2 giorni che ho e non la sopporto perché metto la mano sul viso e sento questa carta vetrata, non mi piace, anche a me piace essere liscio. Poi la mia è rada, anche se volessi far crescere la barba e i baffi, sono troppo lontani i peli uno dall'altro. No, non viene, non verrebbe la barba bella o i baffi belli. A meno che non mi metta una barba finta, così pigliano per una dell'ISIS. E adesso me la butto una barba finta e me la metto. Me la dico. E lei fa di barba finta. Oh, quasi a zero? Io me la faccio con la macchinetta, me li taglio lo specchio con la macchinetta, per risparmiare sul parrucchiere, barbiere, quello che è. E vengono pari vengono. E il barbiere era andato una volta, però avevo fatto il taglio più lo shampoo, anche perché quando i capelli sono bagnati li vengono meglio da tagliare. Però mi sono partiti 17 euro giù di lì. Mi rivolgo io i capelli, ne taglio io la macchinetta, faccio, mi risparmio anche i soldi. Non ho capito Natali, parla vicino al mic, non me li sa tagliare nessuno, hai detto. Ho detto che io la macchinetta ce l'ho, però non mi fido a tagliarmeli. No, basta mettere il pettinino dalla lunghezza giusta, Forse il pettinino è corto quello che hai, gli regoli la sfumatura per tagliare meno. Per esempio io ho un pettinino troppo corto, vorrebbero troppo corti, allora io inserisco la sfumatura, le lame arretrano e me ne taglia meno, capito? Io ne ho uno che ha tre pettinini, più si può regolare, bellissima quella macchinetta. E sai perché devo usare il pettinino più corto e mettere la sfumatura? Perché il pettinino giusto per me l'ho perso. Lo chiamo pettinino, è quello che si applica in punta alla macchinetta. Sì, alla fine è come se fosse un pettine, dai. Per regolare la lunghezza l'ho perso. E quindi sono stato costretto a mettere quello più corto e mettere la sfumatura. E così me li fa quasi, sì, come l'altro, come il pettinino che ho perso. Io un pettinino ne ho uno solo, quello che lui chiama pettinino, però ha praticamente una rotellina che la allontana e la avvicina, e quindi fa diverse, si porta l'aria per diverse spessori di cappello. Sì, sì, da me c'è una leva, e quella leva della sfumatura, io uso quella lì. Purtroppo li perdo troppo in fretta, quei trimmer, li chiamano trimmer, nel senso che le regolazioni della lunghezza del cappello. Vabbè, comunque io ho una rotellina, c'è a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, se la dice. Ecco, e con quello lì più rigoli, anche al dettaglio lui. Adesso mi faccio i capelli a Nino Banfi, me li faccio pelati al centro e lunghi ai lati. Lunghi ai lati. Ma viene male dietro, ci deve essere sempre qualcuno. Oppure alla moicana, raffate ai lati e con la cresta al centro, la crestina bassa. Basta togliere direttamente il pettine grosso e lasciare quello fino fino, te li fa proprio raggio in raggio. Via. Sì, bello amico, i capelli della moicana, per carità. No, no, io sto bene con i capelli. Io senza capelli, con i capelli alla Jürgen sarei peggio di come sono adesso, molto peggio. Ma quando comincia a perdere i capelli poi è un casino. Da uno di quei militari americani incazzati. Oh, lo scalo che hanno fatto. Sì, stamattina sono scalo. Ma così basta anche, le ricchive in vitrino. Ma sai che non sono vitrino? Ah, vero. E vabbè, poi io sono andato a San Quadrato, perché dovevo fare quel lavoro. E vabbè, adesso già va bene. Va tutto bene, dai. Nessun problema. Ci ha fatto un cazzo, una diciottenne bionda con gli occhi azzurri, ho preso cazzo, me l'ho seduta in grembo e mi ha fatto fare caro caro all'incapita di quello là che se n'era da Valeduria, e poi mi cervello anche tutto sudato, era un sogno. Mi ripeti cosa hai detto? Cosa ha detto? Se vengo lì ti ammazzo. Eia, no, a me piacerebbe capelli azzurri e gli occhi biondi. No, mi piacerebbe capelli azzurri e gli occhi biondi. No, tipo la mu, il cartone animato, no, aveva i capelli verdi lei. Ah no, forse tu non l'hai conosciuto già quel cartone animato, che sei più grande di me. La mu, la ragazza dello spazio. Ho detto che io non ho preferenze per il colore dei capelli, l'importante è che non abbia più di 18 anni. Ah, non più di 18, possibilmente meno. Scusa, come ti chiami, Facciani? No, ho detto che non abbia più di 18 anni, sennò è già vecchia. Adesso iniziano a 13 anni a fare la carriera. Davvero me. Guarda, li chiamo, hanno il collo, li chiamano le bambine, adesso a 13 anni, a 14 anni già, spacciano, fumano droghe di tutti i tipi, bevono, truccano motorini, tutto, stuprano, di tutto fanno. Allora il collo, li chiamano le bambini, il colmo è. E le bambine a chi le lasci, a no? Aspetta, con quell'eco non ti capisco bene, troppo. Oh. Guarda adesso se mi capisci, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perché poi si è spolverato, l'ho toccato. No, che poi è parlato in fretta, dimmi, non ho capito. A quello che ho detto io, cosa hai detto? Ma ah, sto uscendo bene, Natali, come sto uscendo? Già stai uscendo bene adesso, dai. Boh. Ditemelo, no, cazzo, se magari spolverandolo col piumino l'ho toccato. Ehi, no, già stai uscendo, ho detto, dopo quello che ho detto io, che a 14 anni stuprano, spacciano, fumano, droghe, che coraggio c'è di chiamare i bambini? Ti ho detto, a Napoli non ci sono le baby gang che fanno rapine, fanno tutto qua. Ehi, a parte che a me già da 12 anni se mi chiamavano bambino, che risponde forse male. Vabbè. Vabbè. Sì, ho visto che ogni tanto o picchiano qualcuno, o accoltellano qualcuno. Poi lì a Napoli è gente marcia, capito? È gente marcia. Io sono del Corsito. A Napoli sono molto, hanno molto sentimento le persone. Quelle brave, però ci sono quelle cattive che sono, mamma mia. Quelle brave sono molto sentimentali, io me ne accorgo quando guardo Maria di Filippi, la Maria, ci sono napoletani, hanno, sono proprio sentimentali, anche ci tengono molto anche ai matrimoni, alle cerimonie, a tutte queste cose qua le fanno in grado. Vabbè, quello anche i camorristi mafiosi. E vabbè, c'è di tutto, c'è. Anche a Roma c'è la Maiana, casa, eppure ci sono zone, io sono stato a Roma anche 10-15 giorni, anzi 15 giorni l'ultima volta, siamo stati. Eppure è tranquillo, sembra tranquillo. Questo amico nostro che di Ustia ci ha detto, occhio che questi qui sono, venite vicino a me che sono strani questi qua. E lui li riconosce perché è cattedra del posto. Guarda, già certi ragazzi si quasi scandalizzavano che io andavo a Santa Maria di Pisa a prendere e a riportare un amico che frequentava in piazza. Sei andato di notte a Santa Maria di Pisa con la macchina. Ma sì, non avevo un buon vero, un cane. E poi, sai, di solito quando ti vedono anche con gente del posto non ti dicono nulla, ma io non ho mai visto né gref, né gang, né niente. Infatti molte sono leggende metropolitane. Poi vabbè, la polizia l'hanno pigliata a vasi di fiori, a sassate, perché la polizia. Io quando andavo a pigliare Christian o a portarlo o a riportarlo a casa, sempre tranquilla la ragione, anche se mi sedevo sui muretti, nessuno ha mai rotto le balle, per dire, proprio a Santa Venere di Pisa, mia la torre. Forse tu a Santa Venere di Pisa non sei mai passato nel Bronx, probabilmente, per quello che parli così. Passa dove ci sono quei garage di fronte, dove c'è la chiesetta prima, che adesso c'è un circo. Prova a passare via, vedi, se necessario, non ti fanno uso di fronte. Ma in quel sottopassaggio con tutti i garage, io sono passato più volte di notte con la moto, un pazzo, proprio per provare paura a me. Trovavi moto smontate, ogni tanto trovavi anche gente lì che chiacchierava. Io passavo con la moto e tutti ti guardavano, vabbè. Ma no, non è mai successo. Brutto è se ti si ferma la moto, si spegne il motore e sei lì in mezzo. No, se ti fermano, ti fregano la moto, ti fanno uso, ti rubano anche i vestiti. Cioè la gente non era proprio sotto, al limite era fuori. Sai che ci andavo io di notte, all'una anche, alle due, quando ero solo, quando vivevo solo, mia mamma insegnava in Gallura, con la moto che all'epoca giacca avevo la Honda, mi pare, no? Ma no, la Kawasaki addirittura era. Ci passavo spesso sotto, cioè spesso facevo un giro della città e passavo sotto e poi uscivo. Tu sei matto, vabbè. Un po' di striscia bisogna provarla, no? Se no. Oggi sono sceso a portare il Tyson verso le 2. Un incidente che c'è vicino a casa, la macchina moto, dalla rotta Asturia che c'è vicino a casa lì. Ah, poi una cosa già, una volta con l'ex amico pizzaiolo, eravamo andati nella zona di via dei Carbonazzi, nei sottoparcheggi, a cercare la moto rubata di Ivan, che li avevano rubata in quella zona. Sai, nei parcheggi dei palazzi lì. E il cugino, lo zio poliziotto ha detto, come siete andati lì da soli? Avete avuto coraggio? Sembra che la polizia ci caghi più di noi. Certo, fortunatamente non è successo niente, però qualcuno ci spiava mi dalla finestra e hanno lanciato una molletta giù, come per dire, noi ci siamo e occhio. Sempre che hai detto così, perché non lo sanno cosa c'è sotto? No, perché voi siete stati un po' provvisti a fare, anche perché sono grepoli, non è? Si trovano ecco di a uno in tipi, ci muoiono tutti i gatti, magari tra di loro non vanno d'accordo, poi si trova perché è uno del palazzo, si mette tutto il palazzo. Quello sì. Ehi, lo stesso quando vai in discoteca tipo a Ossi, no, che uno ti rompe le palle, no? E se lo picchi oppure lo sfidi, te le trovi 40, quello che ci te la discoteca. Io all'ultimo l'ho fatto, lo sai. E praticamente questo qua stava costringendo la regina a ballare, ha detto, oh, non ci vengo. E la stava tirando, ha detto, ma forse non hai capito che non ci può venire a ballare. Io ero fidanzato allora. È successa una vice allucinante. Però non è che c'era gente del sacro fuori, che se no guai. Poi ci hanno perseguitato sino a un bel pezzo. Quando ci va in discoteca bisognerebbe avere anche l'appoggio di amici, a non andare solo, perché se poi uno ti rompe le balle ti aspettano in 40 fuori, in 50. Bisogna avere l'appoggio di amici, perché sono posti un po' a rischio di discoteche, dove c'è gente ubriaca o gente che va lì solo a rompere le palle. Vabbè, comunque me lo ricordo bei tempi, mi piaceva, ma lo sai che io con la macchina andavo in zone isolate, di notte, tipo andavo nell'ex Ruderi di, che adesso hanno rimesso tutto a posto, il parco non c'è ratto, no, e prima c'erano Ruderi, io andavo lì di notte con la macchina. Addirittura una volta mi ero portato un visore notturno comprato dai polacchi o dai russi che erano venuti a Sassari tanti anni fa e vedevi nel buio, no? Vedere chi c'era, chi non c'era, ma lì questa, che uno ti puntasse il coltello ti derubava di tutto. Eppure mi veniva, era, allo stesso tempo era un po' tra la paura e il piacere, mi hai capito? Sai cosa abbiamo trovato di giorno? Dove c'è l'acqua, in quella specie di non proprio grotta, ex chiesa, cos'è, delle candele nere, ma si dice che facessero messe nere. E ho detto, io ci organizziamo con un riportatore, se no uno scoppiato peggio di me, io ci organizziamo e andiamo di notte, senza farci sentire, a spiare. Tu sei matto. Io già andavo lì, ma per cominciare in crociera, però ci andavo per fare queste cose. Eia. Perché poi era zona di tossici, di coso, io non ho mai visto nessuno di notte, però lo sai, ci ho sempre avuto, a parte che da bambino abbiamo sempre avuto la passione, non solo io, per gli edifici abbandonati, tipo la clinica Sant'Anna, no? Era abbandonata da poco, entravi dentro, era tutto in semipenombra perché filtrava pochissima luce. Vedevamo i macchinari per le radiografie, vedevamo le radiografie con i teschi, avevamo 7 anni, mi veniva fifa. Poi se sentivi un rumore, magari c'era un gatto, cominciavamo a urlare, a correre tutti, a scappare. E al monastero sei mai entrato? Ma quello di Monserrato? No, quello che c'era via le mamiglie, adesso non ci sono. Il monastero di Strada? No, quello ci manca. quello ci manca. C'era via Savoia una casa abbandonata, ma non era niente di che. Poi ce n'era una in via Carso abbandonata, dove trovavi dentro o giornali di porno, vabbè, ma lì eravamo già più grandetti, o andavano lì per fare la cacca, insomma. E com'era? Bello questo monastero, sai che non mi sovviene già. Ma io ci andavo sempre con le donne, non ci andavo per una sera, andavo per i boscati. Ma noi eravamo bambini all'epoca. È così. Oh, la zona più spettrale della clinica Santa. Ma ha detto peraltro che tu sei nato lì o sbaglio già? No, non sbaglio, Sant'Anna soltanto. Eia. La zona più spettrale dove filtrava poca luce e sembrava di essere un'oltretomba era la zona della lavanderia, dove vedevi queste lavatrici enormi, ma era spettrale, guarda. E ripeto, noi avevamo 7 anni, mamma mia, una striscia, però ci piaceva allo stesso tempo. E questa cosa mi era rimasta un po' nel tempo, capito, anche da adulto. Ma adesso non c'è più, vero, Sant'Anna? Oh, l'hanno... da secoli, c'è l'ufficio tecnico, non si sa bene cosa ci facciano lì, l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico c'è. Oh, ci andavamo anche con nonna a raccogliere i lumaconi, sotto le foglie ci trovi 2 o 3 lumaconi, un bijou era. E subito c'era una signora vecchia lì, sai, quelle un po' signorili, vecchie, anziane. Le potete entrare lì, è cioè, proprietà privata. Nonna, cosa ti ne fotti? Nonna era, non gliene fregava, dice, chiami la polizia, non gliene fregava niente. Sempre niente che non si poteva fare giù, che adesso è in pensione, non sa nemmeno cosa fa, piccavi su invaderinati. Adesso c'era un fosso, hanno fatto un fosso sotto casa perché era tutto a luglio, tutta la via a luglio non c'era. E non si capiva cos'era, hanno chiamato lei ha mandato una squadra per controllare e praticamente cosa avevano fatto i tubi, si avevano mangiato i capi sotterranei e avevano fatto forte, non si accendevano più le luci, hanno dovuto fare tutta la canaletta nuova, tutto scavare con quell'escavatorino e fare tutta la canaletta nuova. Beh, 2 del palazzo di Sofficioni, prima da Duru, e ha detto, cosa state facendo qua? E vabbè, e c'era un amico mio che ci lavorava, lì, nella squadra del... che ci siamo trovati e stavamo anche parlando, e mi ha raccontato che c'erano i pupi delle... e vedi, che erano mangiati dal topo. Ha detto che poi i topolini piccoli sono peggio di quelli grandi, fanno più danno ancora. C'è un altro e gli ha detto, qui quando ho tappato il buco metteteci tutto quanto, anche i sassi che c'erano dentro, e questo è il copio che è geometra, no? Era il geometra della squadra. Gli ha detto, perché cosa dobbiamo perdere? La mamma detto la vostra dobbiamo toccare. No, però io l'ho perché conta pure, stavano già incazzati. A chi lo sa di cosa va, capito? Quando sono in pensione non sanno cosa fare, vanno a criticare i lavori degli altri. Io non gli ho detto nulla perché c'era questo amico mio, cosa semplicemente per rompere le palle. L'amico mio era il geometra dei lavori, stava praticamente dirigendo i lavori. E mi ha detto appunto che si erano mangiati i capi. E la cornacchia, non lo sai cosa mi ha fatto l'altro giorno. E cosa? Allora, ti ricordi che avevo un'antenna al centro capota che poi mi si era bucata. Gli avevo messo un tappo e poi l'avevo messo più silicone attorno per non entrare l'acqua, no? Un tappo di quelli tipo quando c'hai il buco del rubinetto nel lavandino che devi tappare, ce l'hai presi, ho messo il silicone per attaccarlo, poi ho messo il silicone e l'ho fatto diventare nero nella macchina. Quando scendo giù me l'ha mangiata tutto quanto il silicone, nella staccata della tutta con quei tappetettini piccolini sulla cappotta me l'ha fatto. E ho dovuto rifare tutto quanto. E poi mi ha fatto una bella cagata che partiva dal tetto e scendeva tutto lo sportello, tutta la strisciata. Che va grande, ha detto questa è burraccia, non è possibile. Non è possibile che sia altro uccello, cazzo, la cagata così, perché la cornacchia l'ha un po' fatto. A sciolta era. Non l'ho vista, e se no l'ho varato. E... ci ho ho anche la pistola a casa, l'avrei sparata, a me l'ho fatto la spaventata. E il fatto è che non l'ho vista, però me l'ho immaginata, ma quando ho visto che era tutto quanto stracciato, così, tutto quanto a pezzettini piccoli, piccoli silicone, si è appizzata proprio di sangue, pensate. Quindi tutto l'aspetto che ti è ripreso è stato qualificato da questo uccello, in più ti ha sporcato la macchina. Allucinante, guarda. Cosa ti volevo dire? Di luoghi abbandonati, quale mi ricordo? Sì, andavo a San Pietro, ho trovato caglie di roccate, io da ti posso dire. Non mi rifugio andare. Natalino magari che era dei miei tempi le conosce queste cose. Te lo dico. E lo so che non mi convince, successo da lei, per me, quando ti ho facendo i vestiti, mi riuscite pure lì, la fila di poliziotto, canto. Meglio che non faccia una moglie di poliziotto con un altro. E vabbè, ma cazzo. Ecco, vi devo andare a presentare in questura domani. Fatti scegliere un pubblico, questo e quell'altro. Lascio il nome e cognome, domani presento più in questura. Ah, non hanno lasciato correre, che stronzi. Ma cosa ancora? Sono rimasti scioccati. Poi lui mi ha detto, mi ha confessato una cosa, che per un lungo periodo dallo shock non andava più. Ma va bene. Sì, luoghi abbandonati non riesco a ricordarne, vabbè c'era, dove c'era il show in Viale Trento, questo Isa, cosa è? Proprio lì c'era un edificio dell'Ottocento, antichissimo, noi passavamo da via Gabriele Matta ed era tutto erba, poi finivi dentro, solo che era solo una cosa vuota, ma era proprio cadente, era antichissimo, forse anche del Settecento, se non più vecchio ancora. Però mi ricordo anche di questi, sono passati tanti di quegli anni, forse alla colonia campestre c'era qualcosa anche. Non mi ricordo più bene. Vabbè, ma poi avevo visto alla colonia, buonanotte, alla clinica Sant'Anna, avevo visto che il contatore era acceso e che qualcuno dalla villa a fianco aveva collegato dei grossi fili al contatore per portarci la corrente in casa, forse rubando corrente, capito? E quella corrente che la pagava si è abbandonata. Ah boh, fatto sta che c'era il contatore, non lo so, pigliavano corrente da lì, capito? Due fili attaccati. E sentiva il rumore, della corrente. Ma mi sembra un po' strano, perché se lei vede che non fa, ti lascia. E sai già, erano gli anni 70, non lo so, magari veniva ancora pagata per poco tempo, forse speravano di rimettere a posto la... C'era tutto, apparecchiature, provette, ma quello che ci facevano la prima impressione erano i macchinari, medici e le lastre dei dischi, mamma mia, ogni striscia. Poi potevi trovare anche qualche malintenzionato, magari trovavi un maniaco, ci faceva il QSO a tana di grillo. Noi invece andavamo a rompere e fare le coppiette, quando eravamo piccoli, andavamo alla pietra di coso, come si chiama, padre agraria, lì c'era, la chiamavano Facca di Guzzetto, una mezzo, diciamo, non era proprio prostituta, però prendeva poco, era di una ragazza europea se vogliamo, e ci andavano tutti quanti gli uomini grandi, dai, con questa cosa. E avevano fatto tipo una casetta di cartone e legno, e andavano dentro questa casetta. E noi andavamo e tiravamo i sassi, poi scappavamo. Un giorno questo qui ci ha visto, cazzo, uno di questi maniaci, doveva essere. Ci ha visto, a me mi ha visto il primo piano, perché ero il primo. Allora, deve essere capito dove abitavo, ragazzo mi ha preso per il braccio giù, io ho preso, gli ho dato un colpo di karateka, stavo ragazzino, sono scappato, io, mamma, apri, apri, all'ultimo piano, questo qui precipitato, mi apri, corri, apri, qui, quando ha visto che mia madre ha aperto, che mi ha visto terrorizzato, ha chiuso subito la porta e se l'è scappato, capito? E avevo un motorino, questo me lo ricordo sempre, avevo un motorino, mi perseguitava ogni volta che mi vedeva. Brutta gente e maniaccia. Poi, vabbè, non so se ti ricordi quella storia della moto, del carabiniere, te l'avevo mai raccontata? No. È roba lunga da raccontare, molto lunga già. Un giorno ti racconterò con calma. E la cosa, non l'abbiamo mai da fare. No, no, qua no, non si può. In verticale. Io mi ricordo solo una cosa, che il primo giorno che ho preso la moto, si tutta l'idea, eravamo via Giovanni Pascoli. Scatta il verde, io passo, c'è la carabiniere di quartiere, mi blocca, ha detto che l'ho passato con rosso, ma sta scherzando, e qui era verde, non era rosso. Perché questo qui si è messo a attraversare la strada senza guardare il semaforo, capito? Ha detto che lei l'ha attraversato col verde e che l'ho passato col rosso, perché invece non avevo, io c'avevo il verde, almeno che il semaforo fosse guardato. E mi ha detto, io dovrei, adesso dovrei farle la multa perché posso domani faccia quello che vuole, io la contesto perché non sono passato col rosso ma col verde. Bene, ma a me insiste, questo è quello, certo mi insisto, insisto perché ho ragione, che è il primo giorno che ho comprato la moto, mi ricorderò sempre questo particolare. Mi dice se non c'era in testa, e mi ha detto, ma siamo passati col verde, l'ho visto anche io che era un verde semaforo. Che farabutti, guarda. Ecco perché io dico è macchina, perlomeno è macchina, poi ci può mettere anche moto, Basta trovare il sistema, ci mette anche moto, le videocamere da, le... come si chiamano? Car camera, insomma queste videocamere per macchina, come parte il motore si accendono e documentano tutto, nel caso che qualcuno o durante un incidente oppure sai se trovi anche gente nelle forze dell'ordine che non sono, sono più delinquenti loro, che ti dicono che sei passato col rosso, capito? Tu c'hai la prova, è come una scatola nera che registra tutto quello che succede. Sì, sì, la conosco, la vedono su internet. Non ricordo che me l'hai perché se l'ho ordinata. Guarda, io ne ho una che è poco più di un giocattolo, però riprende, cioè ti fa vedere che io faccio col verde, nel caso di incidenti, nel caso di contestazioni, capito? E l'ho pagata a 29,90 euro, quindi 30 euro, le stavano dando da Usciana a 15 euro, le ho detto Natali, pigliatela. E, diciamo l'immagine non è, naturalmente non è HD, non è full HD, però ti permette di vedere se sei passato col rosso, se sei, già hai capito già. Costa poco, ti danno la mentosa per il vetro, tutta la cavetteria, la videocamera con la batteria, perché c'è una batteria, volendola puoi usare anche come una sorta di videocamera. Tu accendi il quadro, no? Come vai a accendere il motore, si accende e inizia a registrare. È il vero che registra in loop. Cioè, quando hai finito la scheda, comincia a riregistrare dall'inizio sui file più vecchi, li registra sopra, capito? Ah, lui ce l'ha presa per fare il guardone. Allora, poi a Usino, come ho fatto... Allora, ragazzi, come ho fatto un bar agricola che praticamente mi ha portato a Usino di notte, cazzo, c'era tutte le coppette, non ha trovato il cugino, con una tipa, cazzo, uia. E detto, cosa sei venuto a fare il guardone? E lui va a Pratamona, si apposta, capito? Attacca la telecamera e scende a fare il guardone. Ma vado qui con la guaccio, cazzo, ho conosciuto la macchina perché il cugino usciva con la macchina della ditta, ce l'andava con la pizzina a Usino a fare quello che doveva fare. E lui ha detto, se lo sanno dalla ditta, adesso vado e lo scrivo. Cazzo, andatela con la pizzina dentro la macchina, detto, cosa sta facendo il guardone? Questo è da figura. Comunque è meglio averla, quella una, ce ne sono di migliaia di marche, le più care. fare, sono anche col GPS, con la telecamera anche posteriore, però vabbè, quella da 15 euro ce n'è d'avanzo, poi però devi filiare la scheda di memoria, altre 15 euro almeno. L'avevo detto una salita, ma poi non è uscito niente, dai. Ma tu la lasci fissa? Beh, di solito sì. Certe volte la smonto, quando c'è molto, molto freddo, la smonto, la metto nel cassettino, in modo che rimanga riparata troppo dal gelo. Ma in questo periodo non c'è tanto freddo. O la metto nel cassettino, quando ne ho voglia di smontare la lascio lì. Tanto è spenta, capito? Ma le immagini dove le rivedi? Sulla telecamera stessa o le trasferisci al computer o qualche posto? Al computer. Naturalmente la telecamera ha un suo visorino, ha un suo schermo a colori, le puoi anche rivedere lì, però sai, al computer è meglio, senti l'audio anche, c'è il video e l'audio, video di bassa qualità, mi pare sia un 640x480 di definizione, e nemmeno di qualità, ma il semaforo lo vedi, te l'ho detto, a quello serve. Bene, bene. Gloria, se ti si sta sbattendo uno lo vedi in pieno proprio quando ti si sbatte. Vabbè, si spera di no, però non serve per i tamponamenti da dietro, né quelli laterali. Ho detto, serve a capire che se si è passato davvero col verde. Perché ricordati, in un tamponamento all'incrocio la controparte ti darà sempre la colpa, non ammetterà mai di essere passato lui col rosso. E quindi l'assicurazione, che sono dei farabutti anche loro, tenderanno a dare metà colpa a te, metà due mezzi di porti quello, a meno che non siano talmente canaglie da non accettare la testimonianza del video, perché c'è anche data e ora, c'è la data e l'ora. Buono, buono, ma è grande? No, è piccolina. Piccolina, è più grande l'attacco a ventosa, è più grande la, guarda che la fanno anche in televisione, che c'ha dei led laterali all'obiettivo, c'ha dei tre led da una parte e tre dall'altra. Ma questi attacchi a ventosa a me non piacciono, io ce l'ho per il tonto con quell'attacco a ventosa, ed estate non tiene, si stacca sempre, è un casino, mamma mia. Quello non te lo so dire già, in estate. Però ce l'ho da parecchio e non si è staccato, in estate non lo so, e se si stacca lo riattacca, però là, naturalmente sia il vetro che la ventosa devono essere pulitissime, capito già? E una volta che succhia lì, che fa il vuoto, dovrebbe tenere. Vai Natalino, riprenditi un attimo che prendo lo smartphone. Signor, Gianni San Vincenzo di poco di cose. Papadina, prima ce le mettevano nei caschi, quando andavano in moto, si ribuniani per fare sport estremi, adesso pure nei macchini. Però, caspita, per gli sport estremi hanno delle meravigliose GoPro, che hanno una qualità eccezionale, però sono grandangolari, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo. Cioè ti riprendono quasi in 100, credo che siano 150 gradi, non so, troppo granangolari. Quella c'ha una visione tipo occhio umano di più, capito già? Dipende da, ce n'è di tutti i prezzi, dai 15 euro come quella che stanno dando Shan, fino ai centinaia di euro, capito già? 28 mm sono sicuramente. Grand'angolo, io col grand'angolo con la macchina fotografica mi divertivo a fare le macchine piccole e farle diventare tipo macchine tipo supercar. Andavo vicino vicino, gli facevo il muso largo e devo vedere che effetto che facevi. Col grand'angolo che ho io ho fatto due facciate da vicino paurose. Che c'è un 28? No, ancora più spinto, è proprio l'originale della macchina, Cano. Adesso te lo faccio, quando lo tolgo ti faccio sapere che grand'angolo è, ma non me la metto. Però è regolabile, è da 10, no 10-18 forse. Ma l'hai comprato a patto? parte. Poi c'ho il 60-300, il teleobiettivo, e l'obiettivo 50 mm, quello suo, 52 mm. Io ho 70-135 e va benissimo, un po' per tutto, va benissimo, dai. Non mi posso lamentare, posso fare tutto. Ho fatto delle fotografie con Marco l'altro giorno, ti devo subire a Balai. Ma per te mi sa Balai quel tipo cosa ha fatto? Quando è entrato faccio il bagno nudo. Ehi, l'hai visto? E dove? A Balai. Questo tipo, Claudio, c'erano delle mie colleghe, stavano passeggiando, gli hanno fatto i filmati, l'hanno messo su Facebook. Questo tipo si è fatto tutto nudo, completamente, si è tolto le mutande, tutto quanto, e si è fatto il bagno. Poi ha alzato le braccia e tutti quanti l'hanno applaudito, è uscito fuori a pisello fuori, ha preso, si è rimesso le mutande senza asciugarsi, senza nulla. Si è avuto le mutande, la camicia, i pantaloni, si è avviato. Esaurito. E quella ragazza dove a Roma, una fontana di Trevi, infatti, si è fatta nulla lo stesso, ragazza però, ragazza grande, 38 anni, si è fatta nulla e si è messa a nuotare dentro la fontana, l'hanno denunciata per attrescire il nuovo pubblico, la bisogna volare. Vabbè, quando sono stato io con Liliana in Piazza di Spagna a Roma, questa ragazza aveva una camicia, ha preso, se l'ha tolta e era tette nude sotto, e siamo avvicinati i carabinieri, gli hanno detto di rifilarsi la camicia, ha preso, se l'ha rifilata, come si sono allontanati, si è tolta di nuovo, si è girata e si è fatta vedere le tette da tutti, e lui era pensava che non l'avessi vista, invece la stavo guardando, non mi ha detto nulla, no. E poi gli ho detto, l'hai vista quella ragazza? E lui mi ha detto, ah, pensavo che l'avessi vista, non ti ho detto nulla, e invece tu si è messa a guardare. No, ma questa è proprio nuda, donna, nuda, nuda, nuda. Si è spogliata davanti alla fontana, ci ha tolto i pantaloni, camicia, reggiseno, mutande, si è buttata dentro, capito? Si è fatto un giro, una nuotatina intorno alla fontana, sono arrivate le guardie e l'hanno portata via, l'hanno denunciata per attrescire di nuovo pubblico. Ma buona era almeno? No, era dalla telecamera, l'hanno inquadrata dalla telecamera, però era sfoccata, capito? Non hanno fatto vedere niente. Magari ci vedeva la berra del ciappetto. Poi una volta sono andato tanto lontano, ci chiamano i carabinieri, allora 118 non c'era. Ci chiamano i carabinieri, se avete un equipaggio tutto maschile, possibilmente, in via d'Italia ci hanno segnalato un signore che è tutto nudo e sta camminando in pieno giorno, in pieno giorno in via d'Italia, all'altezza lo svincolo per Porto Torres, se c'è questo tipo nudo che sta camminando sulla superstrada, piedi nudi, tutto completamente nudo, come Dio l'ha fatto. Abbiamo preso un equipaggio maschile, siamo andati naturalmente perché un uomo così sta male, dai, se per una donna. Siamo andati, che l'abbiamo preso, lui ha detto che Dio gli aveva detto di farsi baciare dal sole. Come ti chiedo negro, negro di Giusso. No, io era di Bucciutore, aveva anche due lauree, questo qui studicavo dallo studio, lo sai. Mi hanno detto che aveva due lauree. Vabbè, ma quello di colore che è in Piazza d'Italia col pisello fuori, te la sai? No. No, non la sai. Tu Marco la sai? No, io sapevo quello alla Marina di Giusso, che ogni tanto gli viene il raptus, si spoglia nudo. No, no, questa è la Piazza d'Italia, questa è la Piazza d'Italia di colore, capito? E aveva preso il borsello, aveva preso il borsello e chiedeva a tutti se avevano visto il suo borsello e tutti rispondevano sì, col cazzo lo trovi, allora si è tolto il pisello fuori e stava cercando il borsello. Col cavo? No, la parola c'era quella, era morire, capito? Si è tolto cucciolaccio puri, quando sono arrivati i vigili urbani, gli ho detto, ma cosa sto facendo? Ho preso il borsello e mi hanno detto tutti, che cazzo lo trovi. Ma questa è una barzelletta. Sì, ma non c'è una barzelletta, a me me l'ha raccontata non come barzelletta. Lui se è una barzelletta non lo so, ma dice che già è vero. Per questo in Piazza d'Italia, mattina presto, ecco cosa fuori. Io la conoscevo ma come barzelletta, dico la verità. E vabbè, comunque, c'è gente strana, C'è gente che addirittura dal troppo studio vedi esce fuori di testa. Io non ho avuto mai quel pericolo. Ah, tanto meno io. No, manco io, assolutamente. C'era la voglia di studiare, la voglia di lavorare anche. Più di lavorare che di studiare, però era il periodo che bisognava farlo e quindi si faceva, con sacrificio ma si faceva. Sì, cioè, ma a prescindere, beh, questa può essere una barzelletta o no, ma questa ragazza l'ho fatto vedere a Canale 5, al telegiornale, vera, proprio si è fatta nuda, c'era gente, tutti pensavano che era una fatta, si è sfogliata nuda e si è buttata dentro la fontana. Vediamo a che ore sono. Sotto quasi 20, o 20. Cazzo, oggi si è fatto tardi, pensavo fosse più presto. È che mi sono fatto una bella pinichella dopo pranzo, prolungata, sino alle 6:25, da. Mi sono alzata alle 6:25, con sto piede, cazzo, bisogna che riposi, sennò o iui. Non stai lavorando già, di sera? Solo di mattina stai lavorando? No, di mattina. Meglio così, almeno la sera ti riposi, non stai alla mezz'ora. Ma sempre dipende da, come si chiama, oggi per dire ero a riposo, però c'ho ancora un'altra domenica da recuperare, altre 4 ore che ho fatto, nel senso da recuperare, insomma, è tutto quanto in arretrata ancora. Adesso vedi, oggi la riposo, ho recuperato una delle 3 domeniche che ho fatto. Adesso vediamo se. Perché dipende sempre dalle persone, c'è gente che ha malattia, devi sostituire quello, devi sostituire l'altro, dipende sempre. Oggi sono congiunti con gli orari adesso, perché dipende sempre dalla necessità che c'è l'azienda. Vabbè, così è, già va bene. Già va bene, sto comprando un po' di cartacce. Ok, lo stavo dicendo, niente, vai Natali, riprendi, va. E un attimo che ero combattente con Rugani. No, io oggi ho combattendo, l'ho pulito, tutte le salviettine, si è andato la sua concetta sotto la TV, e mi pare che sia adesso da Gendi, quasi, ero con gli occhi chiusi, già andato, quanto si stanca. Doppio room? Anda. Doppio room? Sì. E già sei poco veloce. Guarda due messaggi su WhatsApp, me. Due foto. Auliule, tu le lemblem blu. Io aspetto tutto. E sto usando i 14 a farlo scaldare un po', a farlo andare. Una bottezza, un picchio di terreno allucinante. Dai col picchio, un picco, se no ti ho detto come una tapparetta. Ora, picchio, c'è uno che dice il picchio di modulazione, noi con Gianni diciamo il picchio. Tu l'Intecet lo conosci? L'Intecet, no, io conosco internet. No, l'Intec è un baracchino a frigo, usa il grigio. Natali, questo non conosce il nostro linguaggio. Caspita. Evidentemente, capito? Decidi evidentemente. Evidentemente. Automaticamente non lo sa il linguaggio. Lui non appartiene al nostro giornalino. C'è chi ha il palo idraulico anziché essere il palo telescopico, ma. Voi non parlate di frasi cose, se non viene in mente qualcuno che dice, non ci certo punto, puoi ripetere, a un certo punto. Le pantane! Vabbè, quello già lo sappiamo, è il mio vicino, non c'è problema, a un certo punto, capito? Non c'è problema. Com'erano le pantane? Le pantane, e poi cos'era quello, il catalogo? Le saparette, e poi c'è anche lo stradosso. Io l'avevo fatto anche bello, te lo dico già, te l'avevo letto, tutto bello assemblato, tutte le frasi praticamente ho fatto un giornalino, non mi ricordo più dove l'ho messo, ma quante ce n'erano, ma bello, l'avevo proprio assemblato alla grande. Oh, sui modi di dire delle persone, qualcuno dice per cui fare Luca Gio Maria, spesso per cui. Ma per cui è una parola normale, ma lì ce ne sono di belle. Sì, dalle frasi dette, e le ho tutte assemblate e ho fatto praticamente un riassunto di tutto con tutte le parole, ma molto bello. Non mi ricordo, se lo trovo te lo leggo, devo vedere nei cassetti dove ci sono tutti i documenti delle radio, perché sicuramente è lì. E lo volevo anche pubblicare, poi il timbro si era trasferito, avevo lasciato perdere e non ho fatto più niente, se no era una cosa allucinante. A un certo punto. Allora, per qui. Gianni, è quello lì che ti ho mandato, quelle foto, quella è quella che ho io. Cibo da mensa, non è roba HD, full HD, no, però permette sempre di vedere il croccio, come stai circolando e tutto il resto, dai. C'è la data, sovraimprime la data, l'ora, insomma. Può essere utile, dai, tocchiamo ferro, speriamo non serva mai. Tocchiamo ferro. Praticamente questa telecamera dov'è? Sopra la cappotta, così è. Ehi, accendi le lampeggianti alle sirene. No, dietro il vetro ci mette, aspetta che ti mando una foto, giusto? Si attacca al vetro con quegli attacchi a ventosa, mi. Ah, il vetro si attacca. Ho capito. Sì, già la conosco quella. L'avevi già fatta vedere tanto tempo fa. Ho capito qual è. Sì, se è utile perché non prenderla, se fa il lavoro che deve fare. Sì, è utile per le assicurazioni più che altro, o se devi andare in tribunale per contestare qualche incidente, ecco, quella è una prova, capito? Ho capito, vediamo se è quella che dico io. Guarda, la vende anche il DMC Shop, quello che fa le pubblicità in TV. Sì, me l'avevi già fatto vedere, è bellina. Sì. Oh, poi naturalmente quello schermo che vedi, il visore si chiude quando guidi, se no ti distrae dalla guida, si chiude e basta. E quella continua a registrare in loop. Quando finisce la memoria, cancella i file vecchi e riscrive quelli nuovi, capito? Ah, ecco, cancella e poi riscrive. Va bene allora. Ecco, nelle telecamere che avevo comprato io per qua. C'ha l'hard disk, c'ha e sovrascrive i nuovi file. Ma non è nata lì come quella del computer, no? No, sono quelle che io sono anche intrarussi. Si deve ancora abbiassare. Ha giù quattro telecamere e la fare dove c'è dentro l'hard disk per registrare, capito? Capito più, andiamo a vedere allora, vai. Alla grande. Oh, Claudio. Ehi, Nara. Ti ricordi, ne abbiamo parlato tipo un anno e mezzo fa di queste telecamere da macchina? Che eravamo in rotta con Sandra aveva detto, ma quelle sono vietate, viola la privacy delle persone che passano. La privacy. A meno che non le insegui, proprio che le riprendi contro, le insegui, le riprendi contro la loro volontà, chi passa passa, non è un problema. E lui si stava preoccupando. Tutte le camere violano, ho visto che ce n'è ogni angolo. A ogni incrocio c'è una telecamera, a ogni negozio c'è una telecamera, cioè siamo spiati dappertutto, da quando c'è la legge sulla privacy, siamo spiati dappertutto, è un controsenso, è nota. Hanno il permesso per quelle telecamere, se no fuori tu non le puoi mettere perché viola la privacy veramente. Ma non mi dire! Ma io lo sapevo già. Ma allora come mai si può mettere in macchina e non si può mettere alla finestra? In macchina è la stessa cosa, si muovi tutti, si muovono gli altri. Lo so, io pure le volevo mettere fuori, però non la posso punire pure per controllare la via, capito? Perché ci sono donne anziane qua e cosa, però non li posso punire, solo dentro casa, neanche nell'ambito mio. Se io la metto nell'ambito, sto violando la privacy, se la metto fuori dalla porta, perché io volevo anche l'ambitino mio, no, chi è che sale, lo potevo vedere, invece nuda, non lo puoi fare. E tu cerca di pigliare quelle microcamere, quasi spiami, le camuffi in un vaso di fiori. Certo, il capo è che frega, il capo è che frega, perché il capo è bene o male da qualche parte devono passare. Alla finestra lo puoi fare, le metti una microcamera in un vaso di fiori, in modo che non si veda nessuna telecamera, capito? Ma Gianni c'è ancora? Non so, starà guardando la telecamera. Eia, va bene, dai. Sai, una volta cosa mi è successo? Allora, ho fatto un giro fuori città, stavo tornando in via Cagliari in macchina, una sera tipo le 8:30, in via Cagliari, e vado a girare per via l'Italia, all'epoca si poteva passare. No? Sono entrato e ho visto a destra divieto di sosta e di fermata. C'era divieto di sosta e di fermata, non c'erano transenne né niente. A un punto vedo una vigilanza urbana venire verso di me agitando le mani. No, non si può passare qua, non ha visto i cartelli. E ha detto sì, ho visto due divieti di sosta e di fermata e quindi io non mi sono fermato. Ma qua c'è un concerto e non si può entrare. Allora perché non avete messo le transenne o bloccato fisicamente? Perché se ne sono andate a vedere il concerto, capito? Allora ha chiamato il superiore, una faccia di merda. È venuto contro di me e ho detto ma qua la segnaletica non è chiara, io sono entrato perché non ho visto alcun divieto. E quello sergente mi ha detto allora diciamo che non ti sei fermato all'alto del pubblico ufficiale, capito? Vigili urbani di merda, così ha detto. Cioè allora dice facciamo che non ti sei fermato all'alto del pubblico ufficiale, guarda figlio di bagazzo, poi dice che non mi devo portare quelle cose in macchina mi per registrare il video e l'audio pure. Beh, lì lo potevi cattagliare forte perché lui non ti ha chiamato nessun altro, quindi. Ma non posso dimostrare io, come non lo può dimostrare lui. Insomma, ho fatto tornare indietro, bastava che io passassi, non davo nessun fastidio, giravo a sinistra e arrivavo in viale Umberto, eccetera. Mi ha fatto tornare indietro, poi non è che ha bloccato il traffico per farmi uscire, proprio una faccia di merda. Ero tornato, allora sono andato a casa, ho parcheggiato. Sono tornato in piazza perché volevo dire due paroline a lui e convocare i carabinieri che c'erano a fianco, perché a pigliare per il culo può pigliare per il culo sua madre, suo padre, se sa chi è. Insomma, era già andato via lui, il collega e la camionetta, il furgoncino che c'erano con la specie fuori strada. Poi era andato al comando del vigile urbano a dire questo fatto qua. Che non va bene a pigliare il giro il cittadino, allora dice bisogna risalire a chi c'era a quell'ora lì, servizio con quel mezzo, sono buoni in sappiare tutto, sono dei farabutti tutti. Per lui non ce l'ha lo del servizio, che discorsi sono? Il mio servizio ce l'ha lui, quindi poteva tranquillamente risalire senza problema, capito? Va bene, dai, visto che ho il microfono, anche questo anziché microfono, va bene. Vi saluto e vado a cenare. Ci sentiamo domani, buona serata a tutti. Ciao Natalino, Marco, Gianni Doppio e chiunque fosse qua in ascolto sul canale 10. Buonanotte a tutti, a domani, ciao! Ciao, ciao, bravo! Perché mi volevo accusare di una cosa che io non ho fatto, non l'ha fatto, ma è molto grave che volesse farlo, capito? Molto grave lo considero. Ciao Claudio, ciao ciao. Chi ci è rimasto? Gianni, Natalino? Io già ci sono. E sono andato a attaccare alla matrice, dai, che questo è l'ora del risparmio, bisogna fare un cazzo di notte. Eia, qua, sai qual è la fregatura di qua? Che qua scende molto la pressione, l'acqua e le lavatrici non ce la fa a pescare acqua, il motore fatica, il motorino di carico dell'acqua fatica un bel, lo sai, no? Possiamo fare di notte, no? Ma noi ci abbiamo l'autoclave, non è di questi problemi, c'è l'autoclave nel mio palazzo, quindi l'acqua se non c'è la prende la cisterna, ma la potenza ce l'ha. Beati voi. Qua, o per meglio dire, qua c'erano i vasconi, no? E doveva essere un vascone per ogni condomino. Siccome nonno se n'è strafregato, in tanti decenni se n'è fregato, non ha mai collegato alla rete il suo vascone, ci sono dei furbastri, quella di sopra e quello di sotto, che si sono presi due vasconi a testa, capito? Sia quella di sopra che quello di sotto. Ah, abbiamo preso anche i vasconi vostri. Nonno si doveva occupare, ma non negli ultimi anni, da decenni di allacciare la rete idrica al vascone, per non spendere, non l'ha fatto. E siamo senza vascone, capito? E subito farabutto, sia quella di sopra, no? Che era l'ex amministratrice, si è presa due vasconi, e quello di sotto, quell'altro gonfio, se ne è preso due anche lui, capito? Che gonfio! La gente è furba, però voi dovete farvi sentire, scrivete l'autorizzazione e toccare il vascone nostro. Adesso mi pagate l'acqua che vi state prendendo. Invece non ve l'abbiamo fatto. Già, ma non lo so se c'è pure qua l'usucapione, cioè loro li usano da decenni ormai, non lo so se puoi far valere tu di lì. Vabbè, però tutti pronti a fottere gli altri, capito? Anche se l'hanno visto vuoto, loro non c'era vuoto, invece no, si sono prontamente allacciati, tra cui sopra la ex amministratrice che era una lonfiona, non ha... Poi non lo so chi sia senza vascone, perché se uno l'hanno preso da me, l'altro l'hanno fregato a qualcun altro, capito? Vabbè, ci sono sempre gli usurai, no? Questa gente qui capa gli espedienti così, poi ce n'è tanta di questa gente. Eia, Natalino, ci sei? Presente. Allora, adesso ti racconto quello che mi ha detto un ragazzo che conoscevo. Lui stava scendendo la Budi-Budi, alla fine della Budi-Budi, all'incrocio quasi con la litoranea, trova la stradale, e controllavano tutto, documenti, coso, pneumatici, tutto li hanno controllato, no? E lui ha detto semplicemente, beh, è tutto a posto, no? E loro ha trovato degli sbruffoni, ha detto, beh, allora, sai cosa diciamo? Diciamo che, verbalizziamo che lei non si è fermato all'ALT, capito? Come una cosa simile alla mia. Ci sono mele marce, ci sono mele marce anche quelle forze lì, e non hai letto il giornale. A Sassari, alla questura di Sassari, numerosi vari indagati, almeno per truffe alle assicurazioni. In un paese vicino, non mi ricordo dove, vari carabinieri indagati perché volevano farla pagare a un collega e alla famiglia del collega che li aveva sputtanati, perché avevano scritto falsi verbali, non so, avevano scritto cose false sui verbali, e quello li ha sputtanati dicendo la verità, e volevano farla pagare a lui e ai familiari di lui. Dice, li grippemmo i familiari, così, se cioè parole, li grippemmo i familiari. Io chiamarci da tutte le parti, non so. polizia, eppure ci sono male marce da tutte le parti, anche lì, Toia. Cosa ti hanno ricompato a te, Marco, che lo stavo seguendo? No, no, uno ha detto una frase, non l'ha fatto, non l'ha fatto. Però ce n'è di gente così. Ah, i carabinieri che ho letto sulla Nuova Sardegna sono di Tiesi Mores, la zona Tiesi Mores, capito? Invece questo di Sassari è la questura di Sassari. Organizzavano truffe e danni delle assicurazioni e roba del genere. Sì, sì, quello già lo sapevo, quello già l'avevo sentito. Sì, vabbè, quelle comandate i carabinieri portatori di tanti anni fa, che l'aveva, che le prostitute l'avevano denunciato perché andava e chiedeva il pizzo alle prostitute perché se no le faceva rimpatriare. Ma non era di Porto Torres, era di Sassari. In che anno ti riferisci? A che anno ti riferisci? E molti anni fa, non mi ricordo che anno era, però erano quelle che c'erano ai pietini, le prostitute e quelle. L'anno solo erano i buru promosso maggiore. Capito, Natali? Guarda, io sapevo la storia di Mario Borghi nel 97, quello l'hanno castagnato forte, cacciato dai carabinieri. È relativa a quella cosa della moto che ti volevo raccontare già. Ah, vabbè, comunque a volte a me ne è successa una, sulla VTV di questa ragazza in minigonna. Tanto mi fa autostop prima di Graziella. In questa qua come sta facendo autostop da qua? Mi sono fermato, l'ho preso a metà scoccia e siccome ero con il mio ragazzo in moto, mi sta aspettando all'incrocio della Teroce, perché ha visto che c'è un posto di blocco e allora mi ha detto dai scendi, poi magari fai autostop e ti fai accompagnare qua. E così ho fatto. Beh, vado più avanti, posto di blocco, prende e mi ferma. Mi hanno accusato, gli hanno chiesto la patente a lì, dice ma io non sto guidando perché devo dare la patente, lei la patente ce l'ha, no io non ne ho patente, ecco perché si sono fermati, perché stava guidando lì senza patente e lui c'è, praticamente l'ha fatta cambiare di posto e l'ha presa lui la macchina perché ha visto a lui. Ma sta scherzando, mi è caduto il mondo in testa, mi stavano accusando praticamente che io avevo, praticamente mi stavo guidando e ci siamo fermati per scambiare di posto, capito? E il collega ha detto scusa ma come hai fatto a vedere a 100 metri di distanza che cosa stavano facendo? E il collega era un amico mio però non l'ha fatto vedere, no, me l'ha fatto di occhio. E scusa come fai tu a vedere, si sono bisticciati tra loro, lui voleva, mi ha detto ci segua in questura, in caserma, questo e quell'altro, lui ha detto lascia prendere, vada, vada, gli ha detto che lui non può vedere a 100 metri di distanza, vada, si accomodi, me la prendo io la responsabilità. Cazzo, mi ha fatto andare via, non me ne è grullato il mondo in capo, e effettivamente poi c'era un ragazzo che l'aspettava, una bella ragazza. Sì, favoreggiamento quello è. No, favoreggiamento a cosa? Gianni ha semplicemente accompagnato per un pezzo la ragazza, non era favoreggiamento a nulla. Gianni era all'oscuro, gli mettevano la faccia in culo e caserma. E se andava avanti la cosa lo denunciavano per favoreggiamento, non ti preoccupare. Ma Natalini, non esiste cosa? Favoreggiamento di cosa? Di guida patente? Cosa? Vai! Ma per carità, comunque ce ne mene marce. Vabbè, quello della moto mi piacerebbe, eppure già, io te l'ho raccontato, non può essere che non te l'abbia raccontato, l'ho detto a tutti. Avanti, entra Eugenio, buonasera, non te dirai, non te dirai, avanti. Ciao Eugenio, ci dispiace, dai, non ti abbiamo sentito, se no volentieri, già lo sai. Avanti. Ciao Eugenio, buon tutto, alle prossime, vai Marco. Ehi, ciao Eugenio, scusa ma io ho anche lo squelch inserito per eliminare un po' di soffio di fondo, quindi non ti ho sentito adesso. Vabbè, dai, ci sarà altra occasione. Vabbè, abbiamo un po' dito veloce, riprendendo, vabbè. Ma lo diceva anche la mia ragazza che avevo il dito veloce. Mi pornografico, mi colorito. Di quanti anni stai parlando, ma... No, vabbè, quella era una delle varie, non me lo ricordo adesso già. forse la seconda o la terza, non mi ricordo. Comunque ci parliamo di tanti anni fa. Ma che quante ne ha avuto di donne? Tre, non di più. O meglio, non so se due mezze donne facciano tre donne, le due donne, una donna, sì, buonanotte. Non so se due mezze ragazze facciano una ragazza, perché ne ho avute due molto basse. Mi arrivavano. Vabbè. Continua nella tua vita sperimentale con le donne. Ma io non lo so, canta male cucchia delle donne. Coloriti, da quella volta che te l'hanno detto che eri troppo colorito ci sei rimasto male, no vabbè, ma non sono stato mai troppo abbramito, già la verità, non sono mai stato, dici, sempre in cerca, ci sono altre cose, dai, certo se capita, però deve essere una di buon carattere, moderna, non di quelle che devi pagare tu, capito, che va a carico. Poi adesso, tra le varie leggende metropolitane di Sassari, una va detto che, non so, va dato un passaggio a una a Sassari, proprio tra tipo Platamona e Sassari, e quando ha detto o mi dai tutto quello che hai o dico che mi hai violentata, non so se sia vero, perché questa cosa la raccontano in varie salse. Guarda, io ti posso dire una cosa, il turista che veniva da noi ce l'ha raccontata una cosa del genere, che praticamente vicino al suo paese, questa qui doveva andare vicino al suo paese, e gli ha dato un passaggio, gli ha fatto autostop, gli ha dato un passaggio col cane, stavano ritornando in paese, e lui gli ha detto se non mi dai 100 euro praticamente dico che mi strappo i vestiti e dico che mi stavi violentando. E lui, pur di non passare casino, di non malfamarsi, roba del genere, gli ha dato 100 euro, la tipa è scesa dal camion, passa questa in moto, la carica e se ne sono andati, erano d'accordo, capito? O forse era un altro pollo. Comunque questa storia l'ho sentita già nominare, forse è una leggenda metropolitana, però chi lo sa, brutto, infatti oggi non andò a passaggi almeno a donne, anche se le vedivi che si sbracciano, al cazzo attaccate, scusate la parola. Ah, ma sei troppo colorito, Marco. Dai, abbiamo questo colorito, via. Vabbè, per rendere l'idea, non ne do passaggi nemmeno alle donne, perché sono le più lonfie, ricordati. No, io già ne ho dato a varie ragazze passaggi, però la verità non mi è mai successo nulla di tutto questo. Una volta solo ho dato un passaggio a due di Porto Torres che venivano a comprare il negozio, due tipi, amici, dai, che venivano al negozio a comprare, io pensavo fossero persone come si deve, invece non li conoscevo, erano due tussici. Praticamente gli ho detto che le potevo dare sino agli putti, perché poi dovevo andare a prendere niente. No, tu ce lo dai sino a Sassari, che dovevo muovere una storia, cazzo, ci serve, se lo dai fino a Sassari un passaggio, così chissà quello. No, io dovevo girare a prendere niente, che devo andare a caricare a prendere niente. Arrivati agli putti, ho visto un posto di blocco, mi sono fermato, detto, io scendete dalla macchina, adesso sto chiamando i carabinieri. Cazzo, ci devo fare di subito, che tanti carabinieri subito si danno occhiate, deve essere che li conosceva. E via. E tu, Natalino, di queste storie strane le hai? No. E Natalino già non ci fida di nessuno, me. Sì, fidarsi a me non fidarsi in me, in questo periodo ne trovi in tutti i colori, gente che ti tira le uova accanto tirano le uova alla parabrezza, accanto poi tu vai a sbuttare l'acqua e tu nella visuale ti sei costretto a fermarti, vengono e ti derubano, lo sapete? Sì, ho già sentito qualcosa. Sicuramente tutti i romeni sono quelli che fanno questi sistemini, I romeni sono capaci anche di fare cose più grosse. Praticamente un periodo, sai, quando guidi, vedi le cose, anche senza volerlo, l'occhio ha un grand'angolo, vede tutto, no? E l'aeroporto vede l'avevo sempre parcheggiato già da un mese, da un contatto che c'era questo camper grande, bello, e ho detto, è strano, questo camper c'è già da un po' qua, poi qualcuno che sta qua in zona, che sta diciamo visitando la zona, oppure mi sembra strano, però è sempre fermo nello stesso punto, e mi sospettavo già, capito? Poi ha cominciato questo giro di carte clonate, questo e quell'altro, questa commessa gli avevano rubato 7.000 euro dal conto in banca, cazzetto, e poi cosa hanno sgamato? Questo camper ci avevano praticamente questi rumeni, una stazione, clonavano le carte con la telecamera che andavano a prelevare e facevano i duplicati in questo... avevo una specie di tipo di laboratorio là, all'interno di questo campo e con la telecamera vedevano il numero, tutto quanto, riuscivano a praticamente a clonare le carte, andavano e ritiravano i soldi. Sì, in certi casi credo che siano stati clonando la carta dal POS quando vai a pagare in negozi loschi, cioè ti copia il contenuto della carta, poi magari una telecamera vede fisicamente quello che scrivi, il PIN che metti, e te la clonano, trasferiscono i dati su una carta vuota e così. Mi guarda, c'era ieri dalla Barbara D'Urso, c'era Lupamba, quella nera, e lei faceva di queste cose, mi non so come, fregava soldi dalle carte, però non hanno voluto spiegare il meccanismo, come se non li conoscessero già i meccanismi, ma non l'hanno voluto spiegare. Ma questa roba va perché l'ha invitata al programma, non ho capito, per raccontare queste cose che faceva. Lei che si è pentita, era una che faceva spettacolo con Chiambretti, forse è stata pure il Grande Fratello, ma qui lo dico, qui lo nego. Le porcherie che scrivevano sui truff, su Lupamba, meniamoci il ca con Lupamba. Ma com'è, una bella ragazza, non la conosco, non l'ho mai vista. No, proprio bella non è, ma non è un tipo, non è nemmeno troppo brutta, però a me non piace. Lupamba, guarda su internet Lupamba e vedi sullo smart e vedi apparire le foto. E come si scrive Lupamba? Come si pronuncia? Lupamba. Poi vado a vedere. Io devo mangiare, dai, Marco. Mi sa che chiudo i battenti, vado a mangiare e poi porto giù il cane, dai, che lui è quello coricato vicino a me. Oh, yeah. Sta facendo una bella dormita, lui dice, visto che non si è ancora deciso, alzarsi, non è che mi disturba. Ehi, va bene, ho aperto internet e c'è lei. No, mamma mia, bella non è, cioè in certe espressioni è un cesso. No, bella non è, te lo posso dire già, non è bella. Poi c'è solo la prona inferiore da negra, in fuori. Uff. Sembra di quelle nigeriane che dicono, oh, vieni caro, vieni. E quelli che, quei cinesi che anche a Sassari facevano queste truffe con le macchinette, cioè col cellulare riuscivano praticamente a sballare le macchinette e a farsi dare i soldi, te le immagini? Ci mancavano solo i cinesi a truffare, mamma mia. Ah? Tra italiani, napoletani, nigeriani, pure cinesi, mo. Sì, li hanno sbamato. Allora vanno in questo bar del corso, dice che lo sbancavano ogni volta, se ne è accorto il padrone, perché ogni volta che chiamavano loro le macchinette pagavano. Eia, chissà come cavolo hanno fatto, boh. Non lo so, hanno dei metodi particolari, i cinesi poi col cellulare sono dei mostri. Il Lupamba, quella lì, sì, e beh, una ce n'è in me, basta che metti Lupamba e vedi le foto su Google, varie foto, sembra di chissi nigeriane, 50 bocca picca. Ma c'hai un linguaggio così colorito? Ah, il natalino, come me lo dici bene? Ma che ti ha detto il suo colorito? Che se adesso sono un po'... diciamo che lo vorrei sapere. Giulio Dollaro me l'ha detto, non ho niente da nascondere. Il giorno ero incazzato io quando sono arrivato, giustamente ce l'ho colorito, il, anche quello di sotto. Vabbè, ognuno è come colorito, bianco e nero. Padrone, come ti trovo? Te lo do io il dato. Sì, padrone, adesso vado a mangiare. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte, grande, grande. Buonanotte. Guarda i negri cosa ti dicono. No, questo è grande. Quello è come la coda del coccodrillo, metti, danno i colpi laterali, le gambe, ci pezzano le gambe con la terza gamba. E la mia sembra un bambino di 6 anni. Ecco, un bambino di 6 anni in piedi però, in alto in piedi. Poi, va bene già, buona cena, dai. Stasera ma siamo troppo coloriti. Buonanotte, fate da bravo. Che vi sto lasciando da soli, già lo sapete, quando non ci sono io non dovete fare la mulina. Va bene, diamo il caldo, già facciamo da bravi, là. Vi saluto anch'io che me ne vado a letto. Ciao, ciao Natali, ciao Max. Ehi, ciao a tutti, ciao. Aspetta, alle 9 meno 2 minuti. Aspetta, io devo ancora buttare la differenziata. Ciao, ciao.